perfetto giorno di Simone Spezia. Disoccupazione in crescita in novembre, quella giovanile torna a sfiorare il 40%, diminuiscono gli inattivi, cresce il numero di occupati over 50. Risultato del voto online per i 5 Stelle, via libera al passaggio degli europarlamentari al gruppo dei liberali di ALDE, ancora polemiche nel movimento. In AS nell'ospedale di Nola, dopo la denuncia sui pazienti curati per terra, il direttore sanitario replica, meglio così che non curati per nulla. Prosegue l'emergenza per le nevicate e il freddo, le difficoltà maggiori in Puglia e in Molise, a Roma la circolare dei presidi, in classe col piumino. Si lasciano e lui le dà fuoco, succede a Messina ed è grave ma non in pericolo di vita, una ragazza di 22 anni. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati dunque a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, che ritorna dunque dopo due settimane di pausa per le vacanze di Natale e poi di Capodanno, che speriamo abbiate trascorso bene. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, effettogiorno@radio24.it se ci volete scrivere. Iniziamo dunque, iniziamo dai dati di oggi dell'Istat. Numeri quelli dell'Istat dalle diverse interpretazioni, con un mondo del lavoro che si conferma con dinamiche diverse a seconda delle fasce d'età. In generale a novembre gli occupati salgono di 19.000 unità rispetto a ottobre, più 0,1%, e di 201.000 unità su novembre 2015, più 0,9%. Il relativo tasso segna 57,3%. L'incremento, spiega l'Istat, riguarda le donne e le persone over 50. Aumenta poi la partecipazione al mercato del lavoro, con una parallela diminuzione della platea degli inattivi. Fatto questo che spinge in alto il tasso di disoccupazione, che a novembre si attesta all'11,9%, al livello più alto dopo giugno 2015. Segno più anche per la disoccupazione giovanile, che sale al 39,4%, in aumento di 1,8 punti percentuali rispetto al mese precedente, toccando così il livello più alto a partire da ottobre 2015. Elemento questo che preoccupa il ministro del Lavoro Poletti. Alla diminuzione del tasso di inattività tra i giovani, spiega, corrisponde solo un aumento della disoccupazione. I dati Istat confermano che il Jobs Act non funziona, attaccano le opposizioni. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Siamo alle cronache dal maltempo e dalle nevicate che stanno investendo il centro-sud. Sentiamo il quadro generale dalla nostra Raffaella Calandra. Raffaella. Sì, Simone, quando questa mattina hanno visto che il livello della neve non era per ora ulteriormente salito, per molti pugliesi è stata la prima buona notizia da giorni. La prima buona notizia, ma dobbiamo dire anche del tutto temporanea, da quando cioè una fitta coltre bianca ha bloccato strade, ferrovie, aeroporti, lasciando isolate e a volte pure al buio diverse masserie soprattutto. Già due le vittime solo in Puglia di questo maltempo. Dopo la donna morta dopo essere scivolata sul ghiaccio, è stato trovato infatti senza vita un 80enne nella sua casa nel Brindisino, del tutto priva di riscaldamento. In viaggio ora verso uno dei paesi più in difficoltà, Sant'Eramo in Colle, ancora isolato, il presidente della regione Michele Emiliano invoca l'esercito, e questo perché anche se la situazione è in miglioramento con la riapertura degli scali di Bari e Brindisi e la ripresa della circolazione nelle strade, anche se alcune statali restano chiuse, restano diversi casi di anziani bloccati nelle loro case, di guasti dell'elettricità impossibili da sistemare anche per il vento forte e camion bloccati per strada tra Puglia e Molise. E almeno per le prossime ore il meteo non migliora. Questo l'elenco delle criticità dalla direttore della Protezione Civile della Puglia, Lucia Di Lauro. Alcune zone nel Tarantino, La Terza, Ginosa, Castellaneta, Palagiano, mentre invece nel Barese particolarmente gravosa è la situazione su Altamura, Cassano, Sant'Eramo, Gioia del Colle, masserie isolate nelle campagne di cui non conosciamo la perfetta ubicazione. In queste zone molte scuole sono rimaste chiuse, ma pure in Molise, Basilicata e nei comuni più interni della campagna. Laddove invece erano state riaperte, come a Roma, in realtà molti studenti poi sono stati rimandati a casa per freddo, nonostante la circolare dei presidi a restare in aula col piumino. Infatti le aule erano troppo gelide, 8 gradi ad esempio sono stati misurati nel liceo Malpighi della 12° municipio, e così le lezioni non sono riprese. Difficoltà ancora anche in Sicilia, soprattutto per la circolazione. Ed è tutto, Simone. Grazie Raffaella Calandra, e più avanti torneremo a fare il punto sulla situazione del maltempo e delle nevicate. Andremo a collegarci con alcune delle zone più colpite, tra l'altro con Campobasso, dove nelle scorse ore, ci sono delle foto che circolano su internet, sono stati visti addirittura dei lupi arrivare in città. Ci arriveremo tra poco, ma adesso andiamo ad una storia di cronaca, una brutta storia di cronaca che arriva da Messina. bussa alla porta di casa, la cosparge di benzina, le dà fuoco e poi scappa, cronaca dell'ennesimo episodio di violenza nei confronti di una donna. Questa volta è accaduta a Messina, ieri mattina, quartiere periferico di Bordonaro. La vittima si chiama Ilenia, 22 anni, ora presenta ustioni sul 60% del corpo. È ricoverata al policlinico della città siciliana e le sue condizioni fortunatamente non sono gravi. L'autore dell'aggressione è un uomo di 25 anni, probabilmente l'ex compagno della donna. I due avevano avuto una relazione tormentata, culminata in una convivenza poi interrotta 2 mesi fa su decisione della ragazza. Quest'ultima ha raccontato che appena sveglia, aperto la porta, si è trovata di fronte il giovane che l'ha spinta dentro e le ha versato addosso una tanica di benzina dandole fuoco. Le fiamme l'hanno avvolta come una torcia, a chiamare i soccorsi un familiare. L'uomo è invece fuggito, facendo perdere le tracce per quasi un'intera giornata. Questa mattina si è presentato alla polizia accompagnato dal proprio legale. Gli agenti lo stanno interrogando e accusato di tentato omicidio. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo al fronte dell'immigrazione. Nelle prossime ore il ministro Minniti dovrebbe arrivare in Libia per cercare di stringere un accordo con le autorità locali. Sentiamo. Sul tema immigrazione si registra un passo a due fra il ministro della difesa Pinotti e il ministro dell'interno Minniti. La prima ieri ha chiesto che si passi per il contrasto agli scafisti alla fase 2 della missione europea EUNAVFOR Med e quindi si possano contrastare non solo in acque internazionali ma anche in acque libiche. Oggi Minniti sarà in Libia proprio per parlare di gestione dei flussi migratori con il governo riconosciuto internazionalmente di Sarraj. Nei suoi colloqui a Tripoli, Minniti metterà sul piatto fondi per l'addestramento e la fornitura di motovedette alla Guardia Costiera libica. D'intesa con Bruxelles, l'Italia spingerà affinché decollino i progetti di rimpatrio volontario dalla Libia. Il rischio vero per il ministro Minniti è di trattare con chi non conta o comunque conta parzialmente. In Libia, infatti, il governo di Sarraj è espressione dell'ONU, non dei libici. In Cirenaica, ma non solo, a comandare è il generale Khalifa Haftar, il quale, almeno ufficialmente, è escluso dai colloqui. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'analisi di Gerardo Pelosi del Sole 24 Ore. Il ministro della difesa Roberta Pinotti è stata chiara, soltanto la presenza di unità navali italiane ed europee nelle acque territoriali libiche può contrastare l'azione degli scafisti e mettere sotto controllo le partenze dei migranti. Si tratta in sostanza della stessa linea adottata negli anni 90 in Albania e che riuscì a frenare il fenomeno delle partenze verso le coste pugliesi. Ma in Libia la situazione è diversa. Nel paese si sta combattendo una vera e propria guerra per procura e il Parlamento di Tobruk continua a non riconoscere il governo di unità nazionale di al-Sarraj. Solo al termine dell'incontro che il ministro dell'interno Marco Minniti sta avendo proprio in queste ore a Tripoli con il presidente Sarraj si saprà se un'ipotesi del genere sarà praticabile. Di sicuro c'è che la missione europea EUNAVFOR Med, operazione Sofia, guidata dall'ammiraglio italiano Enrico Credendino, dalla fine di ottobre ha tra i suoi mandati anche l'addestramento della nuova Guardia Costiera libica. Dopo il modulo a bordo di nave San Giorgio, non prima di marzo, l'addestramento riguarderà anche la Guardia Costiera su equipaggi misti europei e libici nelle acque territoriali. In quel momento l'Italia consegnerà alla Libia le 8 motovedette realizzate nei nostri cantieri, già destinate a quel paese, ma la cui consegna fu bloccata dalla rivoluzione del 2011. Così dunque la situazione dell'immigrazione, immigrazione sulla quale torneremo anche più avanti nel corso di Effetto Giorno, nel corso del nostro consueto giro per l'Italia. Adesso andiamo alla politica, che ci parla soprattutto del Movimento 5 Stelle. Tra mille polemiche, gli iscritti al Movimento 5 Stelle hanno votato a favore del passaggio al gruppo parlamentare, europarlamentare dei liberali. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, Simone, con percentuali molto alte, il 78,5% degli iscritti. Il blog del Movimento 5 Stelle dice sì alla svolta liberale in Unione Europea. Hanno partecipato alla votazione 40.600 iscritti certificati, ha votato per il passaggio all'ALDE appunto 32.000 iscritti, 6.500 invece per la permanenza nel gruppo antieuropeista di Farage e 2.300 per confluire nei non iscritti. ALDE e Movimento 5 Stelle condividono i valori centrali della libertà, dell'uguaglianza e della trasparenza, dice poi il testo d'accordo che porta la data del 4 gennaio, ma dietro la svolta europeista ci sarebbe David Borrelli, braccio destro di Davide Casaleggio a Bruxelles. Il 5 Stelle a giugno ha incassato la pubblica stima dell'ex premier Mario Monti, Scelta Civica, ricordiamo, è in Alde, una mossa necessaria dopo il rifiuto dei Verdi all'ingresso nel gruppo del movimento. Finire tra i non iscritti invece significherebbe perdere buona parte dei fondi destinati ai gruppi, una cifra pari a 40.000 euro l'anno per ogni parlamentare, insomma 680.000 euro che i 5 Stelle usano anche per finanziare attività sul territorio. A te, Simone. Grazie dunque Elisabetta Fiorito, due notizie di cronaca giudiziaria che arrivano dalle due principali città italiane. Resta in carcere Raffaele Marra, l'ex capo del personale del Campidoglio, arrestato a metà dicembre con l'accusa di corruzione. Il Tribunale del Riesame ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare e respinto l'istanza dei difensori. A Milano, intanto, il GIP ha disposto la proroga per altri 6 mesi delle indagini sulla piastra di Expo, come chiesto dal sostituto procuratore generale Felice Isnardi. La proroga delle indagini, secondo indiscrezioni delle quali parla l'agenzia di stampa ANSA, riguarda il sindaco di Milano ed ex amministratore delegato di Expo Beppe Sala, accusato di falso materiale, falso ideologico, da altri 6 indagati, tra cui 2 ex manager di Expo. Oggi l'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico su Alitalia. Valeria De Rosa per un aggiornamento. Valeria. Sì, buongiorno Simone, a te e ai nostri ascoltatori. L'incontro è terminato, è durato poco più di un'oretta e bisogna dire che al termine di questo incontro dettagli più chiari non ce ne sono, anche se i partecipanti si dicono tutti soddisfatti. Così l'amministratore delegato di Alitalia, Boll, un incontro molto buono con i ministri, il che è positivo, ha detto, e anche il ministro Delrio ha detto è stato un incontro interessante, la riunione è andata bene, però ha poi precisato non abbiamo visto nessun piano, abbiamo ragionato bene insieme con chiarezza sul futuro. I problemi di Alitalia sono più o meno sempre gli stessi, purtroppo, a distanza di anni. La compagnia nel 2016 ha perso più di 1 milione al giorno, ha poco più di 11.000 dipendenti che ne fanno un vettore piccolo rispetto alle grandi, tanto per dare una misura: Lufthansa ha 120.000 dipendenti comprese le controllate, Air France 58.000, e però risulta una compagnia grande rispetto alle low cost. Quindi si parla di nuovo di un taglio dei dipendenti, anche se non è stato quantificato, girano varie cifre che vanno dai 1.600 ai 4.000 esuberi, si parla ancora una volta del taglio dei costi e quindi il taglio del costo del lavoro in poche parole, e si parla di mettere in piedi 2 divisioni all'interno della stessa compagnia, una dedicata al lungo raggio e una per le tratte italiane e europee, che dovrebbe essere più simile a una low cost, ma non ci sono dettagli al riguardo. E si parla poi anche della rimodulazione degli accordi di partnership. Sappiamo che le banche creditrici, in particolare Intesa e Unicredit, sono molto critiche nei confronti della gestione di Etihad e avrebbero chiesto 2 advisor, uno per analizzare la situazione finanziaria e l'altro per analizzare questo piano industriale per capire se davvero sta in piedi. Ricordiamo che Etihad è già al 49%, non può salire oltre il 50%, perché in questo caso Alitalia perderebbe i diritti di volo in Europa. E grazie a Valeria De Rosa per questo aggiornamento. Sono stati assegnati i Golden Globe, con qualche polemica politica tra l'altro. È stata Meryl Streep, che ha ottenuto il premio Cecil B. DeMille alla carriera, a fare il discorso più importante e più duro alla 74esima edizione dei Golden Globes. L'attrice 67enne ha sottolineato l'importanza della diversità nel mondo dell'arte. Hollywood brulica di outsider e stranieri, se li buttate tutti fuori non vi resterà altro che guardare il calcio e le arti marziali, che non sono arte. Poi, senza nominarlo, ha ricordato quando Donald Trump, durante la sua campagna elettorale, scimmiottò un giornalista disabile. La mancanza di rispetto invita al non rispetto e la violenza genera altra violenza, ha detto la Streep. È una Hillary lover, così il neopresidente Trump ha liquidato in un'intervista pubblicata dal New York Times le critiche dell'attrice e ha negato di aver mai deriso qualcuno. Diversità comunque è senz'altro la parola che ha contraddistinto questa 74esima edizione dei Golden Globes, premiati molti attori di colore, tra cui Viola Davis, miglior attrice non protagonista per Fences. Ma a dominare su tutti è stato il musical La La Land. Ai Golden Globes 2017 ha ottenuto infatti 7 premi su 7 nomination, tra cui quelli come miglior commedia, miglior regista e migliori attori protagonisti Emma Stone e Ryan Gosling. Miglior film drammatico invece Moonlight, migliori attori drammatici Isabelle Huppert e Casey Affleck. Infine, miglior film straniero il francese Elle del regista Paul Verhoeven. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È stato presentato oggi il mitico album delle figurine Panini, Dario Ricci, buongiorno, ciao Dario. Buongiorno Simone, dalla sede della Lega Calcio di Serie A in via Rosellini a Milano. È un rito che si ripete ormai dal 1961 e ci accompagna con l'immancabile ritornello. Simone, ce l'ho, manca, ebbene, 56esimo anno dell'album dei calciatori Panini che si rinnova continuamente. Quest'anno cambiano le cose più evidenti, le dimensioni, un album più grande e più grandi sono anche le figurine, qualcuna in meno, quindi forse per completarlo faticheremo un po' meno, ma sicuramente più grandi, con tante altre novità, una stellina che indica ad esempio l'appartenenza nazionale, dei quiz al fondo calcistico chiaramente sul retro delle figurine, ma tornano anche alcuni grandi classici che ad esempio nell'ultima edizione si erano persi, ritornano alle statistiche stagione per stagione per ogni campione, proprio ai record dei campioni viene dedicata nel nuovo album anche una pagina speciale, poi entro marzo arriverà un kit separato tutto dedicato alle novità del calciomercato che proprio in queste ore sta infiammando le discussioni degli appassionati. Appassionati che sono difficilmente stimabili perché pensa Simone, centinaia di milioni sono le figurine che da oggi e chissà fino al completamento di tutti gli album inonderanno le nostre edicole ma anche le nostre case. Stime, la stessa Panini parlano di un numero di soli collezionisti del solo album calciatori, pensa di 1.500.000. Insomma, la raccolta è iniziata, ce l'ho manca. E un mercato niente male, non c'è che dire. Grazie al nostro Dario Ricci. Dunque, noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade. E poi, forse l'avrete visto in giro da qualche parte, su Facebook o forse su qualche giornale, le foto prese da qualche paziente dell'ospedale di Nola che ritrae delle persone che vengono curate per terra perché non ci sono le barelle. Ne parliamo subito dopo il traffico, sarà il nostro primo appuntamento nel nostro giro per l'Italia. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato dei dati diffusi oggi sulla disoccupazione, abbiamo parlato del voto online dei 5 Stelle che hanno deciso di passare al gruppo dei liberali nell'Europarlamento, abbiamo parlato dell'emergenza per le nevicate e il freddo e ci torneremo tra un attimo, e come avete sentito abbiamo parlato anche dell'album Panini. Adesso andiamo a Nola per una vicenda che sta facendo scalpore e che riguarda l'ospedale di Nola, l'ospedale Santa Maria della Pietà. Sono state diffuse nelle scorse ore delle immagini da alcune persone che si trovavano là di pazienti curati per terra. Il ministro della Salute Lorenzin ha inviato i NAS che sono in queste ore proprio nell'ospedale per fare delle verifiche. Il direttore sanitario dice, e qua devo dire la verità, è difficile dargli torto, dice è meglio che non curarli, però resta un problema di carenza di barelle e di posti letto. Raffaele Salvatore Ambrosino è sindacalista appunto dell'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola ed evidentemente anche dipendente dello stesso ospedale. Buongiorno e benvenuto Ambrosino. Buongiorno a voi. Allora, che cosa succede? Succede che purtroppo era una cosa già annunciata, cioè il problema della carenza di barelle e barelle pure sedie a rotelle purtroppo mancano già con richiesta ufficiale sia dal reparto di pronto soccorso da circa un anno, anzi più di un anno. E che cosa è successo l'altro giorno? Di quando sono queste foto che vediamo in giro? Allora, io ho sentito i colleghi, eccetera, ma si parla che comunque quelle macro immagini che dispiace, e lo sottolineo, dispiace vedere che l'ospedale dove io lavoro abbia la maglia nera d'Italia, insomma. Però bisogna sottolineare. Mi faccia capire una cosa, Ambrosino, a me interessa capire questo. Quelle foto che abbiamo visto sono un caso particolare o è un fatto che nell'ospedale di Nola avviene con una certa frequenza? Allora, il fatto di mettere una persona a terra è particolare, cioè è una cosa che è capitata. Il fatto che mancano barrelle e sedie a rotelle, questo invece no. Questa purtroppo è una cosa che esiste già da diverso, ripeto, da diverso tempo e si sta cercando di avere quando prima gli approvvigionamenti. Tra l'altro a quelli che mi scusi, mi dice cosa ne pensa, però tra l'altro in quello che scrivono gli utenti nel commentare queste foto postate da alcuni pazienti, dicono: sì, guardate che quell'ospedale là è terrificante a prescindere, come dire, da quelle foto che abbiamo visto, nel senso che le difficoltà a farsi curare, a trovare un medico che ti aiuti, eccetera eccetera, sono tante. Ah, questo volevo sottolineare. Il nostro problema principale è che con i pochi mezzi che abbiamo, le persone che io conosco all'interno dell'ospedale sono dei seri professionisti, quindi ce la mettono tutto. Noi abbiamo una forte carenza di OSS, cioè sarebbe gli operatori sociosanitari, che sai che sono la figura che vanno ad aiutare e a fare assistenza particolare proprio ai pazienti, quindi sono la manforte degli infermieri. E poi non parliamo degli infermieri, ti lascio immaginare che stamattina tra malattie e cose c'erano solo 3 infermieri in pronto soccorso. Solo 3 infermieri in pronto soccorso? Sì, sì. Stamattina. Tra l'altro sì, col freddo che fai, quindi immagino che i ricoveri aumentino. Sì, sì. L'influenza. Ma io voglio sottolineare un'altra cosa, guarda, e siccome se parliamo a livello nazionale, cioè io parlo che proprio le istituzioni è come se hanno sottovalutato ampiamente la posizione dell'ospedale Santa Maria della Pietà. L'ospedale Santa Maria della Pietà è un ospedale di frontiera, cioè che sta tra Napoli ed Avellino e deve servire circa 600.000 abitanti. E quando il governo sia centrale fa un paradosso, cioè dice da una parte che la nostra nazione sta invecchiando, la nostra popolazione, sì, e dall'altra invece diminuisce i posti di letto anno per anno. Sì. Infatti l'ultimo piano ospedaliero, piano attuativo ospedaliero, ha diminuito. Sì, da dire che poi la sanità è responsabilità della regione, cioè, certo, non del governo. Sì. Che, poi, non dello Stato centrale. No, va bene, è ovvio, però ahimè, ecco, tu hai detto prima che il ministro ha mandato degli ispettori, ma gli ispettori si dovrebbero rendere conto che la sanità, la dare assistenza è una cosa seria. E se appunto la gente invecchia e tu mi diminuisci i posti letto, ecco che succedono queste cose. Allora, grazie a Raffaele Salvatore Ambrosino, appunto sindacalista dell'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola. Tra l'altro sono delle scorse ore notizie anche che arrivano da Napoli, dove in strada solo pochi giorni fa c'erano 4 ambulanze soltanto sulle 16 disponibili, quindi insomma situazioni difficili anche là. Promesso che ci torneremo su questi temi, intanto vogliamo andare a fare un punto sulla situazione del maltempo sui singoli territori. La nostra prossima tappa del nostro giro per l'Italia e in Puglia è la Terza, dove siamo in linea col sindaco Gianfranco Lopane. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a voi. Siete sommersi dalla neve, come vanno le cose? Siamo ormai al quarto giorno di emergenza, oggi le attività si stanno concentrando nel raggiungere tutte le contrade, il territorio extraurbano, perché abbiamo numerosissime segnalazioni di masserie isolate. Perché là il problema sono le frazioni, immagino, le masserie, no? No, il problema è stato sia il centro urbano, dove i tratti più battuti, cioè quella viabilità principale del centro urbano, avevamo mezzo metro di neve, in quelli meno battuti avevamo anche un metro e mezzo di neve. Nelle masserie invece la situazione era ancora più disastrosa. Un metro e mezzo? Ma lei l'ha mai vista in vita sua? Quanti anni ha Lopane, se non sono indiscreto? Io ho 36 anni, quindi relativamente giovane. Le persone più anziane ricordano che anche la nevicata del 56 è stata meno forte di quella che abbiamo vissuto in questi giorni. E immagino che proprio gli anziani siano la vostra più grande preoccupazione in questo momento, no? Assolutamente sì, abbiamo soccorso nelle scorse ore, persone che avevano bisogno di cure mediche, persone che erano rimaste senza viveri, persone che non avevano medicinali. L'attività si è concentrata naturalmente valutando le varie priorità dal centro operativo comunale, diciamo gran parte di queste sono indirizzate, molti lavori sono ancora in corso, soprattutto come le dicevo nel territorio extraurbano e nelle contrade, questo con i mezzi della macchina comunale, con i mezzi degli altri enti, fra cui anche l'esercito e l'aeronautica militare. In questo momento, diciamo, l'aeronautica si sta occupando di un punto sensibile del territorio, l'impianto di potabilizzazione del Sinni, che è, diciamo, uno dei più grandi in Europa, quindi certo, stiamo parlando fondamentale. Grazie Lopane, sindaco di La Terza, e ad Altamura Giacinto Forte, il sindaco della città. Buongiorno, benvenuto Forte. Buongiorno, saluto il mio collega. Vi hanno liberati perché sembrava che foste completamente bloccati, è arrivato l'esercito, ho capito escluda il Forse, eravamo completamente bloccati, qualcuno ha sottovalutato questa ondata di freddo e di gelo, siamo stati bloccati per 4 giorni, non avevamo collegamenti con nessuno, abbiamo lavorato con le nostre forze in campo invece di occuparci della città, che è comunque libera perché abbiamo fatto un'opera preventiva prima della nevicata e quindi non abbiamo avuto strade gelate proprio perché abbiamo sversato sale un po' dappertutto, ci siamo occupati di quello che avrebbero dovuto fare altri, insomma. Chi altri? Diciamo adesso altri, non è il momento delle polemiche questo, ma... Sono arrivati in ritardo i soccorsi per... Sono arrivati veramente in ritardo, tanto in ritardo, abbiamo salvato tante famiglie, ho dovuto postare anche immagini che parlano chiaro, insomma, non c'è bisogno di parole, sono le immagini che parlano, oggi saremmo stati qui a raccontare tutt'altro, insomma, invece possiamo dire che... la situazione sulla statale 96 è risolta, adesso ci serve intervenire anche sulle strade provinciali dove abbiamo tante altre masserie isolate, abbiamo tante case sparse e cominciano a mancare i viveri. Una bella notizia di 2 minuti fa, ha chiamato il prefetto, c'è stata una riunione, un tavolo tecnico in città metropolitana e finalmente si sono decisi a mettere a disposizione dei cingolati perché era l'unica soluzione per poter raggiungere queste masserie e sbloccare le provinciali. Tenga conto che sono collegato oggi, da ieri sera, con Bari e non ho mai avuto problemi con Matera, ma noi abbiamo urgenze anche verso Corato, verso Ruvo, verso Sant'Eramo, verso La Terza, verso Cassano. Ci staremo e verificheremo come vanno le cose. Grazie intanto a Giacinto Forte, sindaco di Altamura. Antonio Battista, sindaco di Campobasso e anche presidente della provincia di Campobasso. Buongiorno. Ma addirittura si sono visti i lupi in città da voi? No, io non li ho visti, quindi non li ha visti. Se non vedo io non posso testimoniare. Ok, cioè perché circolano delle foto, però naturalmente non sappiamo, sono lupi, sono cani, non si sa esattamente. Come vanno le cose da voi? Da ieri abbiamo recuperato tutti i collegamenti con i comuni della provincia, almeno una strada per ogni comune è stata liberata. Purtroppo è iniziato di nuovo a nevicare, c'è la bufera e quindi il lavoro fatto nei giorni passati purtroppo rischia di essere vanificato. È ricominciato a nevicare di nuovo. Purtroppo le temperature si stanno di nuovo abbassando, la città è transitabile, le contrade sono tutte raggiungibili anche se con delle difficoltà, tuttavia la vita in città inizia piano piano a riprendere. Elettricità, acqua, viveri, tutto a posto? No, ci sono molti comuni che hanno problemi con l'acqua, anche perché in alcuni comuni manca l'elettricità, l'Enel sta facendo un ottimo lavoro, c'è un elicottero che anche questa mattina doveva alzarsi in alto per fare una ricognizione dove eventualmente c'erano i guasti dell'Enel, però non so se la cosa è potuta avvenire proprio perché è iniziato di nuovo il vento. La ringrazio, grazie Antonio Battista, grazie sindaco di Campobasso e presidente della provincia. Ci fermiamo, la borsa. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: disoccupazione in crescita in novembre, quella giovanile torna a sfiorare il 40%, diminuiscono gli inattivi. Voto online, 5 Stelle via libera al passaggio degli europarlamentari al gruppo dei liberali di ALDE. In NAS, nell'ospedale di Nola, dopo la denuncia dei pazienti curati per terra, il direttore sanitario replica: meglio così che non curati per nulla. Prosegue l'emergenza per le nevicate e il freddo, le difficoltà maggiori in Puglia e in Molise. A Roma la circolare dei presidi in classe col piumino, ma i ragazzi rimandati a casa. In alcune aule c'erano 8 gradi la borsa. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta Effetto Giorno. Non abbiamo ancora molto spazio, come sapete l'edizione del lunedì di Effetto Giorno è un po' più corta, nel senso che lo spazio tra le 13.45 e le 14, nello spazio tra le 13.45 e le 14 c'è il nostro appuntamento sugli autotrasporti, quindi diamo la linea a Mario Platero, che tra l'altro ci parlerà anche di Golden Globe. Ci ritroviamo alla fine per i saluti.